Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Un saluto affettuoso a tutti i nostri ascoltatori da parte di Gesi. E di Antonio. Buonasera Antonio. Buonasera Gesi. Come andiamo? Va abbastanza bene, grazie. Allora, ti do la parola. Benissimo, noi rivolgiamo un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che accogliamo in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo di internet è bluradioveneto.it e ricordiamo anche la possibilità di ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Con un saluto cordiale al nostro regista e al nostro coordinatore. A proposito di internet, abbiamo scoperto una cosa interessante, che ci sono molti dei nostri ascoltatori che sono anche su internet, quindi il nostro target, diciamo, per quanto potrebbe essere abbastanza sorprendente, sta andando alla grande. E questo significa che più di qualcuno sta andando a riascoltare la trasmissione, e noi proponiamo a questi nostri amici affezionati di fare un'operazione virale, come si dice, e di ampliare, se possibile, la platea di chi ci ascolta attraverso il passaparola. Ecco, esattamente. Allora, questa sera avremo un ospite virtuale, che è il signor Marinello Donato, che poi lui si presenterà, e parlerà della Bassa Padovana, provincia di Treviso, di Rovigo, Padova e Rovigo, proprio la Bassa Padovana, il Polesine. Però noi, prima di telefonare al nostro ospite, leggeremo qualche racconto che lui ha scritto. Cominciamo però con una canzone. E la prima canzone in programma è cantata da Rosanna Fratello ed è Amsterdam. Andiamo a farci una passeggiata ad Amsterdam. Eccoci di nuovo in studio e incominciamo a dare un saggio di ciò che ha scritto il nostro ospite. E lui ha scritto dei racconti che si svolgono tutti nella Bassa Padovana, come dicevo prima. E prima di tutto leggerò una premessa, cioè lui ci spiega che cos'è il casò. Dopo magari ce lo spiegherà meglio a voce, ma intanto leggiamo. Ecco, questa è una premessa. Il casone era un tipo di abitazione rustica a pianta rettangolare e con tetti spioventi ricoperto di paglia. Era caratteristico della regione lagunare, da Comacchio a Grado, ma anche dell'entroterra emiliano, veneto e friulano. Ad uso abitativo e per la pesca nelle zone costiere, il cason acquistava nelle campagne, molto diffuso in quelle padovane, la funzione di una momentanea dimora, come riparo dai temporali, per riposare, ma anche come deposito degli attrezzi di lavoro. Serviva soprattutto come base a chi era costretto a stare per l'intera giornata nei campi, lontani anche chilometri da casa. C'erano casoni di varie dimensioni. Si andava da modeste costruzioni con una sola porta di ingresso, nella quale ci poteva stare al massimo una persona, a casoni dotati di ampi spazi. Dentro il contadino consumava un pasto caldo. Erano le stesse donne, moglie o figlie, che fossero, che glielo portavano da casa. Ma poteva metterci a riparo, in caso di brutto tempo, anche le proprie bestie, oltre che offrire protezione ed ospitalità ai vicini. El Cason sul Moro è la storia di uno scherzo che fu architettato nei confronti di un anziano, proprietario di un campo di viti, da parte di due buontemponi, padroni anch'essi di un terreno coltivato ad uva e separato dal lotto del vicino da una carreggiata. Custodivano ognuno il proprio podere, trascorrendovi anche alcune ore della notte, soprattutto nel periodo precedente la vendemmia. Il vecchio contadino si era pure costruito vicino ad un albero di gelso una casetta ricoperta di paglia, il cosiddetto cason, in cui di tanto in tanto schiacciava un sonnellino. Un giorno, si era ormai prossimi al pranzo, i due vicini gli proposero di fare le cose con comodo, come dire: vai pure a mangiare e rilassati tutto il tempo che vuoi, alle tue vigne ci pensiamo noi. Uno di loro, per rendere lo scherzo che avevano in mente di fargli più veritiero, disse che si sarebbe assentato per via di una mucca che doveva partorire. Detto, fatto. L'anziano prese la via di casa. I due viticoltori si misero immediatamente all'opera. Appoggiati due pali all'albero, presero una corda che gettarono al di là della pianta, annodandola al tronco. Agganciarono poi la fune alla base del casone. Si coordinarono quindi in modo tale che mentre uno tirava la corda, l'altro sospingeva il casone facendolo scivolare lungo i pali. Ad un tratto, l'addetto alla spinta si vide costretto, per essere di aiuto al compagno, ad usare un legno a forcella. Alla fine il casone fu issato sull'albero, ma in precario equilibrio, in quanto andò a posizionarsi dal lato in cui i rami erano meno resistenti. Quando il vecchio ritornò, restò annichilito di fronte allo spazio vuoto. Soltanto dopo qualche istante si rese conto che il casone si trovava stranamente sulla pianta. «Ma chi è che al podariesser sta?» si chiedeva incredulo. E si diresse verso i due burloni, girando di quando in quando la testa verso il casone. «Ma chi se sta?» I vicini assunsero un po' l'aria di chi cade dalle nuvole. «Ma Dio santo, come il può essere finito la sora?» si domandavano anche loro. Di fronte alla rustica dimora in bilico sull'albero, il vecchio non riusciva a darsi pace. Gesticolava, si grattava la testa, guardava gli altri due come per cercare una risposta alle sue domande. I due naturalmente stettero al gioco, manifestando al pari del vecchio stupore e perplessità. Dopo che si furono divertiti abbastanza, i due mattacchioni si offrirono di togliere il casone dalla pianta per rimetterlo al suo posto. Di comune accordo, scambiandosi occhiate furtive, tanto fecero, in fase di tiraggio, che il casone finì di rotolare verso terra, capovolgendosi e sfasciandosi. Da buoni amici si offrirono poi di ricostruirgliene un altro. Il vecchio si ritrovò alla fine con un nuovo casone, molto più bello e confortevole di quello precedente, ma gli rimase, chissà per quanto tempo, come un chiodo conficcato nella testa, l'inquietante interrogativo di come e per mano di quale misteriosa potenza sul casone fosse finito sull'albero. Bene, allora adesso leggiamo un altro racconto. E questo, così, è un po' spiritoso. La biscia nella pentola. Oreste era un contadino di grande attaccamento al lavoro. Proprietario di alcune pertiche di terreno, il villano dedicava al suo podere la maggior parte del proprio tempo. Con l'arrivo della bella stagione, vi trascorreva spesso l'intera giornata, senza neppure far ritorno per il pranzo, data la distanza da casa. Si era pure costruito un capanno, il casone, di paglia, dotandolo di un focolare con un camino in muratura, di un tavolo e di qualche batteria da cucina. La rustica abitazione gli serviva sia come ripostiglio per gli attrezzi, sia per farsi da mangiare. Un'ora prima di mezzogiorno interrompeva i lavori per prepararsi la minestra, che altro non era che un misto di verdure con fagioli e fave, messi a cuocere in una pentola. Appendeva quindi la casseruola al gancio della catena ancorata ad un ferro incastrato di traverso del camino. Riprendeva momentaneamente il lavoro, ma rimanendo comunque nei pressi del capanno. Di tanto in tanto vi rientrava per dare una controllata al fuoco, aggiungendo altri ciocchi. A mezzodì si accomodava per il desinare. Un giorno, mentre si preparava il solito minestrone, non si accorse che nel casò c'era già un inquilino abusivo. Una biscia, forse per sfuggire al freddo notturno, eravamo agli inizi della primavera, si era infilata nel camino per poi ravvoltolarsi al ferro di sostegno alla catena. Con i vapori che salivano, la biscia si era piano piano slegata, precipitando alla fine nella pentola. Quando Oreste, al tocco della campana delle 12, rientrò nel casone, assaggiò, come era sua consuetudine, la minestra prima di servirsene. «Urca, che buona!» esclamò incredulo. Non convinto, ne sorseggiò un altro cucchiaio. «Cosa sia sta roba?» commentò perplesso. Era talmente gustosa che dopo il primo piatto se ne riempì un altro e poi un altro ancora, finché in fondo alla pentola non rimase che una lunga lisca. Alla vista dello scheletro Oreste ebbe un sussulto. «E questo cosa seo?» si chiese sconcertato. Ripresosi dallo stupore, il bifolco afferrò per il manico la pentola e saltò sulla bicicletta, corse di gran carriera verso la farmacia del paese. Vi entrò appena in tempo per mostrare al dottore, che stava ormai per chiudere, la pentola con il resto del rettile. Il sanitario osservò sotto lo sguardo preoccupato del villano la lunga lisca giacente sul fondo della pentola. Poi espresse il suo parere. «Ti fa male la pancia?» «No». «Accusi disturbi?» «No». «Dal momento che l'hai trovata così buona», concluse il dottore, «fallo un'altra volta». Risollevato dalle parole del dottore, il contadino risalì con la pentola sulla bicicletta e, canticchiando e fischiettando, si riportò al lavoro. Allora, leggi l'altro racconto o... No, noi andiamo un'altra canzone. Va bene, allora la seconda canzone in programma è tratta dall'ultimo album di Giorgia, Io fra tanti. Fra tanti ti guarderà come sei, ti viaggerà quando ridi nei pensieri che vivi, negli sbagli che fai. fra tanti, ti guarderà come sei e viaggerà quando ridi nei pensieri che vivi, negli sbagli che fai. Solo a uno fra tanti importerà come sei. Come guardo io adesso il tuo viso, mai nessuno al mondo così potrà mai. E solo io fra tanti. Ed ecco di nuovo in studio con un altro brano, un altro saggio della produzione letteraria del nostro ospite. Sane, verdi e dolci acque. Il paesaggio delle campagne polesane nella mia infanzia era selvatico e trascurato. C'era stata l'alluvione del 51 che lo aveva profondamente segnato. Ritirandosi l'acqua del Po, aveva lasciato dietro di sé una pandemia di invadente frivolezza, un tumultuoso diffondersi di erbe, arbusti, fiori e piante vagabonde. Nasce e si impone un nuovo ecosistema. Non più ripuliti, i fossi che circondavano i campi esondavano con facilità, ospitando erbacce e fasci di giunchi e canneti fra i quali si stendeva la pavarina, uno strato di piccolissime alghe che ricopriva l'acqua per lunghi tratti. In questa fitta giungla di piante acquatiche avevano trovato il loro naturale asilo animali delle più svariate specie, fra i cui pesci, rane, roditori, rettili ed una infinità di insetti e di zanzare che pullulavano in superficie. Una vera e propria, inesauribile dispensa di cibo per le rondini d'estate. Per il loro aspetto abbandonato e un po' selvaggio, i fossi esercitavano su di noi bambini un fascino irresistibile. Si caricavano i nostri occhi di significati esotici e misteriosi, neanche ci trovassimo lungo le rive di qualche fiume africano. Io e qualche amico li scandagliavamo, nella bella stagione, accompagnati da un intenso gracidare di rane. Gli incontri e le occasioni per delle forti emozioni non mancavano mai. Poteva essere la vista di una biscia acquattata fra le erbacce, di un roditore intento ad attraversare a nuoto il fosso a breve distanza dal predatore, di un rospo intravisto fra i canneti mentre gonfiava la borsa nel suo struggente richiamo, e ancora di salamandre che si muovevano goffamente lungo le rive appena fuori dall'acqua. Nel frattempo, ad attirare la nostra attenzione erano i pesci particolarmente numerosi quando, per effetto del caldo, il livello dell'acqua si abbassava. La tentazione di acciuffarli con le mani era tale che ci calavamo direttamente nel fosso. Era questa la tecnica detta della pesca a palpeto, che per noi diventava quasi un gioco, tanto fruttuoso quanto insidioso. Succedeva spesso che, presi dall'ebbrezza del facile pescaggio, non ci si accorgesse che stavamo sprofondando nel fango, la cosiddetta cuora, o peggio ancora in una buca lasciata libera dallo sradicamento di un albero. In un modo o in un altro riuscivamo sempre a tirarci fuori. Una cosa è certa, non si tornava mai a casa indenni da punture, da morsi o da eventuali zecche, sporchi che più di così non si può, ma neppure a mani vuote. «Dove sei tu sta?» chiedeva accigliata la mamma nel vedermi ritornare conciato in quel modo. «Corra drio i fossi, a te sa che non voglio!» Intanto mi portava via il sacchettino con il pescato, costituito da un po' di tinche, scardole, pesci gatti, i cosiddetti barboni, rane e qualche altra strana creatura da regalare subito agli animali domestici subito accorsi. La mamma, per dissuadermi dal frequentare i fossi, mi prospettava la presenza di animali mostruosi, lì, pronti a divorarmi. Non si rendeva conto che le sue visioni apocalittiche non facevano altro che stuzzicare la mia curiosità e, naturalmente, la voglia di ritornarci. Nelle sere d'estate, col buio, la campagna sembrava risvegliarsi come per magia. A ricrearla erano le lanterne all'acetilene di cui si servivano i pescatori di rane per immobilizzare ed acchiappare gli anfibi seduti sulle rive dei fossi, mentre con le loro barche scivolavano sull'acqua. Ricordo di aver vissuto queste suggestive esperienze con qualcuno dei miei fratelli. Di rane se ne portava sempre a casa una gran quantità, ma alla fine, fra teste decapitate e camicie sfilate, di carne anche per un solo pasto ne rimaneva ben poca. La mamma ce le cucinava di solito con il sugo e l'immancabile polenta. D'estate i fossi diventavano un po' il nostro mare. Ci si bagnava e si divertiva con giochi e gare di abilità che soltanto i bambini sanno inventarsi. Non ci occorreva molto, un asse per canoa e un legno per remare, una fune tesa tra le due sponde per degli esercizi di equilibrio, le robuste spalle di un compagno per farsi catapultare in acqua. Un gioco fra i più spettacolari consisteva nel saltare i fossi. Qualcuno ce la faceva, altri invece, che volevano competere con i più alti, finivano sistematicamente dentro. Poi c'era anche chi, per farsi vedere più bravo, si tuffava, ma il risultato il più delle volte era quello di finire con la testa impiantata nel fondo malmoso. Anche questo però faceva parte del gioco. Pure d'inverno, quando gelavano, i fossi rimanevano i nostri siti preferiti. Su queste piste naturali ci lanciavamo in lunghe e spericolate slittate, sfruttando le suole in legno con le borchie dei nostri stessi scarponi o degli slittini costruiti da noi, sia pure con l'aiuto di qualche adulto, nelle rifiniture. Esisteva sempre il rischio che in qualche punto le lastre di ghiaccio cedessero, ma la gioia nello scivolare ed insieme il gusto per il rischio erano tali da non farci vedere il pericolo. Ci si rendeva conto di certe sciocchezze soltanto quando, ripescati dal fondo di un canaletto, si finiva a letto con febbroni da cavallo. Ora i fossi hanno smesso da tempo la loro originaria funzione di sostentamento per le famiglie e di luoghi di incontro e di giochi per i bambini. Le loro acque sono diventate sempre più scure ed inquinate. È saltato il naturale equilibrio fra le specie. Scomparsi pesci, rane e bisce, ora non ci rimane che assistere alla crescita esponenziale di nutrie e pantegane. Non più cacciati per le loro pellicce, protetti dagli ecologisti, immuni dai preparati chimici per la concimazione dei campi, questo tipo di roditori hanno finito per diventare sempre più agguerriti ed invadenti. Una vera e propria sciagura, soprattutto nelle periferie delle città, dove, non avendo altro da masticare, si sono dati a tranciare i cavi elettrici e telefonici. È forse anche questa una rivincita della natura che tenta di riprendersi il territorio di cui è stata derubata? Benissimo, abbiamo ascoltato anche questo racconto del nostro Donato Marinello e fra qualche secondo l'avremo in linea. Pronto? Pronto, pronto. Signora. Buongiorno, buonasera signor Marinello. Buonasera. Buonasera. Come sta? Io sto bene, sono qui in attesa di rispondere alla vostra intervista. Beh, intanto ci racconti un pochino di lei. Lei è nato proprio in quei paesi? Allora, io sono nato precisamente a Villadose, in provincia di Rovigo. Sì. Nel 43, e ho vissuto da quelle parti per 25 anni circa, dopodiché mi sono trasferito a Milano. Però, diciamo che di quel periodo ho conservato un ricordo molto bello, molto nitido, insomma. Difatti si sente dei suoi racconti. Decisamente. Ecco. Nella vita cosa ha fatto lei di bello? Adesso sarà in pensione, logicamente. Io sono in pensione, ecco, e niente, mi sono, diciamo, diplomato maestro, poi anche mi sono laureato in materie letterarie. E ha insegnato? E ho insegnato da prima nelle scuole elementari e poi alle medie lettere. Benissimo. E poi appunto è arrivato anche per me il momento della pensione, insomma. Adesso si gode la pensione. Adesso mi godo la pensione. Io dico sempre che si stava meglio quando si lavorava perché si era più giovani. Sì. Da un certo punto di vista, sì. Da un certo punto di vista, ecco, perché il dono della gioventù è qualcosa di prezioso che poi, ecco, ci si pensa e dice, guarda un po', ma adesso sono vecchio, d'accordo che ho acquistato magari in saggezza, in in sapienza e tutto, no? Però chiaramente l'ideale sarebbe unire, come dire, la saggezza alla forza fisica. Troppo ideale. Troppo lusso. Lei ci torna spesso al paese? Io ci torno ogni anno, vado a trovare i miei parenti. Ovviamente i miei parenti, i miei fratelli non è rimasto, cioè tranne uno che abita ad Ivrea, là non è rimasto più nessuno, tranne una cognata che è rimasto un po' il mio punto di riferimento, no? Sì. Ecco, per il resto ho solo nipoti e pronipoti da quelle parti, per cui una volta che se ne va anche la cognata, mi sa che dopo... Poi si spezza il legame. Si spezza un po' il legame con la terra natia. Insomma, no, così. Allora, noi abbiamo letto tre racconti suoi, che poi adesso ci ascoltiamo una canzone e poi ne parliamo. Certo. Ecco, allora lei ci stia un momento ad ascoltare e noi dopo torneremo con lei, va bene? D'accordo, va bene. Sì. Bene. Allora, la terza canzone in programma è cantata da Ornella Vanoni ed è intitolata Bello Amore. Bello, bello amore, amore bello che nessuno può negare. Ti vogliamo eterno, ti imploriamo in ginocchio di restare. Non andare via, che ci fai morire. Bello, bello amore, amore bello da volere. Da sognare come un paradiso senza pace, scorri nelle vene, dolce malattia che volersi bene. Vita, grazie a questa vita. Per te io se canto, canto te. Bello, bello amore, amore bello come il sole, come il sale. Dolce malattia che volersi bene. Ed eccoci di nuovo col nostro amico signor Marinello Donato. Pronto? Eccoci pronto, qua. Pronto. Allora, noi abbiamo letto, prima abbiamo letto la premessa del Cason. Sì. Ecco, abbiamo spiegato. Allora ce lo spiega meglio lei, questo Cason, che cos'era appunto, questa dimora piccola o grande? Sì. Era una costruzione rustica, diciamo che... si estendeva, come dire, dalla pianura padovana fino a Ferrara, diciamo nella zona bassa della pianura, e serviva, come dire, come abitazione momentanea per il contadino, no? Che dovendo trascorrere praticamente l'intera giornata lontano da casa, aveva bisogno di un punto di riferimento, no? Per mangiare, per schiacciare un sonnellino nelle ore pomeridiane, ecco, per non dover ritornare a casa, perché a volte succedeva, soprattutto in quel periodo là, che il luogo di lavoro era molto lontano dalla casa in cui abitava il contadino, per cui si costruiva sul posto un capanno, un cason, no? Ecco, dove lui che gli serviva come dimora momentanea. Questo era un po' il cason, che serviva a lui per mangiare, anche per dormire, ma anche per le bestie in caso di cattivo tempo venivano accolte nel caso. Ecco, questo era un po' la funzione, ecco, del Cason nella bassa padovana, nel Polesine, nella bassa ferrarese, eccetera, eccetera. Di aver spiegato abbastanza. Sì, sì. Adesso ci sono ancora questi casoni, no, vero? Ma, guardi, io è da, come si dire, quando vado giù non vado, non è che giro per la campagna per vedere, ecco, penso, presumo che ci siano ancora questi casoni ormai diroccati, ma voglio dire... Ci resta un ricordo, un residuo di, certo, questi casoni, qualche testimonianza ancora, di un'altra epoca. Testimonianza, ecco, di questi ci sia ancora. Ah, lei mi dice che quando va giù non è che vada così a camminare per la campagna, che è così, no, bello. Le dico perché io, diciamo, la mia casa si trova, cioè, chiaramente adesso è abitata da questa mia cognata, lungo una strada, la strada provinciale che collega Rovigo-Adria, allora è la provinciale, adesso è diventata statale, no? E praticamente, come dire, costeggiata da platani, con un margine piccolissimo per chi vuole, diciamo, per chi vuole camminarci, quindi a rischio di venire, diciamo, addirittura travolto dalle macchine, ecco, e di conseguenza non è molto bello passeggiare lungo questa strada, e anche chi va in bicicletta corre il rischio di venire, diciamo, buttato in un fosso. Ecco perché, diciamo, non ho granché voglia quando vado giù di attraversare, di andare. Sto lì con mia cognata in questo orticello che lei possiede, in questa casa con un orto vicino intorno, e scorriamo lì, la mia compagna, passiamo lì 2 o 3 giornate, dopodiché ritorniamo a Milano oppure a Brentonico, dove abbiamo la casa in montagna. Ah, quindi andiamo. Andate più a Brentonico forse, che no a Cosa? Signora, metà a Brentonico e metà a Milano. Ecco, insomma, lei ha scritto un racconto. Lei ha scritto un racconto che ha letto adesso Antonio. Sì. Intitolato Sane Verdi. Ecco, qui lei proprio ci racconta dettagliatamente di come vivevate quando eravate bambini. Certo, in sostanza. Ecco. Quindi ne facevate di tutti i colori. Ne facevamo di tutti i colori, chiaramente. Ecco. E questi fossi, come io spiego, direi abbastanza bene, racconto, erano per noi un po' come fiumi, diciamo, che avevamo studiato a scuola, fiumi africani o del Sud America o il Rio delle Amazzoni, no? Che dove potevamo vivere le nostre avventure, no? Quindi si trasformavano nelle nostre teste, come nella nostra immaginazione, come se fossero dei fiumi, grandi fiumi, ecco, quindi... E lì trascorrevamo, come dire, la maggior parte del nostro tempo. Sì, specialmente in vacanza dalla scuola, d'estate, perché d'inverno c'era freddo. Mamma, sì, d'inverno faceva freddo, però, come lei ha potuto, diciamo, rilevare leggendo il racconto, li usavamo per queste nostre, diciamo, per slittate. Esatto. Diventavano lo stesso un luogo di divertimento per noi. Ci si accontentava di molto poco, effettivamente. Ci si accontentava veramente di molto poco, allora. Esatto. Ecco, sono cambiati i tempi. Forse quella era la chiave come posso dire, della serenità, eccetera. Non c'erano esigenze ulteriori come ci siano oggi, insomma, ecco. Ed era un divertimento sano, all'aria aperta. Esattamente. Quello che adesso i nostri ragazzi non gustano più, perché vanno a scuola, poi hanno la ginnastica, poi hanno questo, hanno il computer, hanno mille diavolerie, no? Che non gli permette più di come si chiama, di vivere in modo pieno e gioioso la propria fanciullezza. E anche se... è dinamico, li vedi questi qua sempre lì che stanno davanti al computer mangiando patatine e panini, questo è un portato del progresso, cosiddetto, tra virgolette. Certo. Non le fa malinconia vedere queste cose? Cioè, lei che è stato così, ha giocato tanto, è stato sì, ma un monello, un discolo. io ero un bambino molto vivace e discolo anche, ma io sì, un po' di nostalgia ce l'ho osservando ad esempio i miei nipoti che possiedono di tutto e di più, però se ad esempio io gli offro magari un gioco, un giocattolo da me costruito, e loro sono incuriositi e lo vogliono provare, usare, si divertono quasi di più perché magari quel gioco elettronico che gli è stato regalato non li soddisfa pieno, cioè lo usano e poi magari non ci capiscono quasi niente, e sono gli stessi adulti che devono mettersi lì per fargli capire l'uso esatto di questo gioco, no? Quindi c'è questa faccenda, che da un lato sono attratti dal giocattolo elettronico, però dopo un po' si stufano e preferiscono magari giocare con cose semplici. I giochi di una volta. Mio nipotino che una volta si divertiva con delle mollette a farle, diciamo, scivolare lungo i fili, no? Ah. Ecco, e così, in questo modo, no? Stimola la fantasia, naturalmente, anche questo modo di giocare. Come si è ispirato per scrivere quel racconto del caso sull'albero? Allora, mi sono ispirato, si chiama un po', perché avevo notato, quando ero piccolo, vedevo in giro questi abitacoli, questi casoni, no? Questi capanni, sì. Qui, ecco, che servivano, poi mio padre me ne parlava, dice, vedi qua, perché in realtà i miei non hanno praticato l'attività agricola, no? Erano dei mattonieri fornaciai, no? Ah, erano fornaci. Ecco, però per arrotondare, insomma, che dalla sua attività mio padre non è che ricavasse granché, no? Allora per arrotondare il magro salario che entrava in casa, dovevamo, diciamo, andare a lavorare, come dire, in campagna, cioè andare a lavorare la terra. Quindi mi sono accorto allora, diciamo, lavorando in campagna, della presenza di questi casoni. Sì, perché poi dopo ne ho parlato anche con qualche contadino, anche con qualcuno che poi ho incontrato a Milano, e che anche lui veniva dal Veneto, e mi ha raccontato della presenza di questi casoni nelle campagne, e questo mi ha incuriosito e mi ha portato a fare anche una piccola ricerca sulla nascita di questi casoni, del loro utilizzo, insomma, che cosa servivano, eccetera, eccetera. E anche, appunto, sì. E anche allora c'erano dei buon temponi ai quali piaceva molto scherzare, fare degli scherzi, così, che erano anche, certo, simpatici, ecco. Poi, fra l'altro, vero? Sì. Erano questo così... è uno scherzo che mi ha appunto raccontato questa persona di origine veneta, che di questo della bici nel casone, no? E poi del casone sul Moro, e appunto me l'ha raccontato questa persona, e ovviamente questo mi ha offerto lo spunto per scrivere appunto questi due racconti. Sì, adesso ci fermiamo un momentino, e sì. Lei ci aspetta e ci ascoltiamo, sì, certo. Un'altra canzone cantata da Imodà, Salvami. Sempre così, che tanto indietro non si torna, e va sempre così, che parli ma nessuno ascolta, e va sempre così. Salvami, sempre così, che tanto lei poi non ritorna, e va sempre così, che aspetti il sole e cade pioggia, e va sempre così, che credi di aver tempo invece già, invece a primavera. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, il signor Marinello, sì. Per un così un excursus, diciamo, tra prima la curiosità, sì. La biscia deriva anche questa da un episodio realmente accaduto oppure, diciamo, ci abbiamo ricamato di fantasia? Guardi, in realtà io, a dire il vero, di bisce in, diciamo, in mano, presi in mano, non ho mai fatto questa esperienza, no, perché, però io chiaramente questo l'ho dedotto dal racconto di questo mio amico che mi ha parlato di questa biscia che si è accomodata sopra questa specie di traverse che teneva e che sosteneva appunto la catena alla quale, all'estremità della quale era agganciata la pentola. Ecco che appunto per sfuggire al freddo eccetera si è appollaiata lì e poi è finita nella pentola. Quindi sì, è verosimile, diciamo, se non è vero come episodio. Sì, esatto. è una cosa verosimile, cioè, diciamo, esatto. Quindi, e un'altra, ecco, cosa il... che però mi scusi che sì. Le abbia viste le bisce in questi fossi con la pavarina, la famosa pavarina, certo. Questo è un fatto incontrovertibile. Infatti. Sì, ma siccome c'è scritto appunto che il brodo era buonissimo, quello mi è rimasto un po' impresso, che era molto buono. E poi un excursus, diciamo, un paragone tra i luoghi d'origine di un tempo e quelli odierni, diciamo, c'è qualcosa che si possa dire, che si possa... Sì, ecco, le posso dire questo, perché che mi ha indotto a concludere in quel modo, che adesso, come si chiama, i fossi sono diventati il regno, oltre che delle pantagane, anche delle quelle specie di castori, esatto, invaso, castorini, le nutrie, castorini, sì. Che hanno invaso, eccetera, e questo è lo spunto per concludere i racconti in questo modo. Ce l'ha offerto un nostro amico che, abitando dalle parti di Opera, da quelle parti lì, ecco, un po' fuori paese, ecco, e si è ritrovato un bel giorno a non riuscire più a usare internet, il telefono e internet, perché le nutrie avevano tranciato i cavi del telefono, per cui si è ritrovato, diceva, ed è infestato, mi diceva, questi fossi sono infestati di nutrie, sì. Per cui ho preso, quindi da qui ho diciamo, sono arrivato alla considerazione che chiaramente anche i fossi del Polesine, del Padovano, del Ferrarese, della Bassa, eccetera, siano ormai in preda non più ai pesci che una volta prolificavano, no? Ma animali un po' di questo genere. Animali non autoctoni, cioè importati, non è, giustamente. La nutria non è autoctona. No, infatti. Viene dal Sud, viene, non so, dal Sud America. Esatto. Mangiavate anche voi le rane? Anche noi, certo. Quello delle rane è una cosa che effettivamente sono un'epopea. Con un uncino, oppure no? Col carburo. Un chiodo acuminato, per cui ci avvicinavamo molto piano piano, molto cauti, in modo da non insospettire. Insospettirla, sì. Ecco, e poi la infissavamo con questo chiodo, ecco, applicato all'estremità di una di una canna, di un bastone, insomma. Una volta, diciamo, da bambini se ne facevano di cose. E pensare che adesso le rane è un mangiare prelibato, perché se lei vai in un ristorante a chiedere un piatto di rane glielo fanno pagare abbastanza salato. Sì, perché una volta invece mangiavano polenta. Cucina povera, diciamo. Cucina povera, si facevano anche con le rane, però come dicevo nel racconto, in realtà una volta tolta la camicia alle rane, ecco, restava poco comunque. Perché è fatta di ossicini in pratica, no? Esatto. Però ci si accontentava, chiaramente. Eppure sul nel Mantovano, noi in campagna, mi ricordo che... Io no, ma so che anche le mie amiche che andavano a lavorare in campagna, così alla sera mangiavano polenta e rane. Sì, no, ma era una usanza anche nostra. Sì, sì, perché penso che il Rovigotto sia abbastanza simile al Mantovano come campagna. Sì, io direi, penso di sì, cioè anche a Mantova è una zona pianeggiante, siamo vicini al Po, no? Sì. Quindi insomma, le usanze, le tradizioni sono similari, no? Tra le due province. Ma adesso la gente lì da voi, come lì da Villa Dose, come vive? Vive molto diversamente da come viveva una volta? Adesso... Sì, viveva molto, molto diversamente. Anzitutto, anche il benessere è arrivato anche da quelle parti. D'accordo che adesso attraversiamo un po' dappertutto. Sì, ma questo dappertutto. Però chiaramente, ad esempio, adesso introduco adesso un argomento che con il discorso della campagna non c'entra nulla, però nessuno adesso, io ad esempio quando sono andato una volta a fare la spesa nei pochi negozi rimasti ancora aperti, no? Ereditati dai figli, nessuno si arrischia di andare lì ancora con il libretto, per dire, no? Famoso libretto in cui... Sì, il libretto della spesa. Si segnava. Il libretto della spesa in cui il bottegaio annotava la spesa effettuata e in attesa che poi al fine mese di saldare il conto a fine mese. Se andiamo avanti così mi sa che andremo anche noi con il libretto della spesa. È una considerazione, diciamo. Sì. Quindi diciamo, io l'ho dedotto da questo piccolo particolare che ormai dappertutto, insomma, no? Ecco, benessere è arrivato un po' dappertutto. Sì, è arrivato un po' dappertutto, anche se adesso ce lo stanno un po'... Vabbè. Signor Marinello, adesso noi abbiamo ascoltato le sue spiegazioni, abbiamo letto i suoi racconti e la ringraziamo perché veramente è stata un'esperienza molto bella, anche se io personalmente, essendo nata nella campagna mantovana, tante cose le sapevo già. Ma, posso dire una cosa? Sì. Un argomento in cui mi sento particolarmente ferrato, anche perché l'ho toccato nel corso della nostra conversazione, sarebbe il discorso dei giochi antichi, dei giochi che facevamo, perché io poi arrivato a Milano mi sono inserito nel centro milanese per lo sport e la ricreazione come animatore di giochi antichi. Oh, questo, no? È interessante. Allora io ricordandomi un po' di come giocavo io da bambino, io poi ho sfruttato un po' questa mia attività manuale, questa mia introdotta grazie anche a mio padre che mi insegnava alcune cose, e poi l'ho utilizzata a Milano. Vabbè, dai, allora ci ascoltiamo una canzone e poi vediamo di parlarne un momentino di questi giochi antichi, va bene? Aspetti un momentino che... Sì. Allora, adesso ci ascoltiamo Mina con Quando ero piccola. Quando ero piccola dormivo sempre al lume di una lampada per la paura della solitudine, paura che non m'ha lasciato mai, nemmeno adesso che sei qui e dormi accanto a me. No, perché per quelli che si amano non c'è lo stesso sogno da sognare in due. Una donna è più sana. lampada per non restare sola. Adesso io vorrei, vorrei sognare quel che stai sognando tu. Ed eccoci di nuovo in studio col nostro Marinello. Certo, sì. Signor Marinello, abbiamo pochi minuti e sì, magari se lei ci può così sintetizzare un po' questi giochi, perché abbiamo poco, pochissimo tempo. Certo, allora in pratica questi giochi prendono un po' lo spunto da un po' dalle mie attività manuali da bambino, quando ci costruivamo, per dire, non so, un flautino utilizzando un legno di salice, no? Ecco, poi non so, le famose pistole sparelastici, no? Quindi un legno di pulpo, una molletta sopra poi per sparare gli elastici, oppure il fionde. Ecco, tutto questo io, come dire, l'ho immagazzinato da bambino. Ecco, e poi arrivato a Milano io mi sono proposto, in attesa di vincere il concorso per insegnare nelle scuole presso il Comune di Milano, come un esperto, come dire, di giochi antichi, no? E lì ho seguito anche dei corsi che mi hanno abilitato a realizzare, ad esempio, delle macchine a spinta, delle piccole macchine, tipo piccole ferrarine, munite di sterzo, con i cuscinetti a sfera davanti dove c'erano i semiassi delle macchine, quindi all'estremità di questi dei cuscinetti a sfera, e poi dopo con tanto di sedile munito di alettone. E per usarle hanno bisogno queste macchine di due personaggi, di un pilota e di uno spingitore, no? Io le chiamate macchine a spinta, non hanno bisogno di un motore, bisogna soltanto di qualcuno che spinga queste macchine e l'altro che è seduto sopra le dirige in modo da andare a impattare. A spattere di qua e di là, sì. Qua e là, eccetera. Con divertimento per entrambi, presumo. Entrambi. Sì. Ovviamente è chiaro che dopo un 100-200 metri è chiaro che quello che spinge ha diritto a il pilota. Lo scambio di ruoli. Sì, certo. È un gioco divertente forse, tutto sommato. È un gioco molto divertente e io, se mi capita... questi giochi qua, ecco, compresi anche i cerchioni di bicicletta, che ne so, i telefoni con i fili, sapete il telefono con i fili, su questi barattoli collegati con un spago e poi due che comunicano tra di loro. Sì, questo me lo ricordo anch'io, sì. Ecco, queste si ricorda anche sì, lei, sì, no? Sì. Ecco, e questi giochi io appunto li ho portati anche a Milano e continuo, se mi capita che c'è una festa, una sagra, eccetera, magari mi offro alla bisogna per queste rappresentazioni di giochi di un tempo, insomma. Di giochi antichi. E su questi giochi io ho anche scritto dei racconti, due o tre racconti che io non le ho inviato perché l'argomento era principalmente sulla campagna. Vabbè, sì. Comunque avremo modo di sentirci e di parlare. Se un giorno potremmo approfondire. Certo, d'accordo. Questo tipo di argomenti. D'accordo. Anche perché ci rendiamo conto che questo dei giochi antichi era anche un momento per socializzare, così, per confrontarsi, era un qualcosa che oggi c'è molta più difficoltà a fare, è proprio cambiato radicalmente. E quindi pedagogicamente erano validissimi questi giochi una volta. Infatti li chiamavano i giochi di società. Ecco, solo giochi che... di società. Solo che non lo sapevamo, nel mentre si facevano questi giochi, non lo so, perché anch'io chiaramente ho partecipato all'epoca, il pito, noi lo chiamavamo il pito, quella specie con di cuco. Col baseball, quella specie di gioco di baseball. Sarebbe lei si riferisce alla lippa. Alla lippa, esattamente. La lippa, che a Milano si dice lippa, ma da me si dice, da noi la Rovigo si dice bindecche, a Treviso. Ah, perché a Treviso, qui da noi si chiamava il pito, il pitocchetto, il legnetto, esatto. Appuntito all'estremità che esattamente, che si lanciava con un bastone. Poi, Sì. Ma anche proprio questi erano un sistema arcaico, ma progenitore, se penso io, della baseball, perché certo, è l'antenato antesignano del baseball. Beh, quindi praticamente non è stato inventato niente, diciamo. E questo tipo di, appunto, di giochi, di restare insieme, eccetera, consisteva proprio in una crescita anche collettiva, se vogliamo, o sbaglio? Certo, sì, no, infatti era un modo per intrattenere, per instaurare dei rapporti con gli altri, per mettersi a confronto con gli altri, no? Esattamente. Ecco, per emulare gli altri, quindi una sana emulazione. Si imparavano le regole. Bene, certo. Allora ne parleremo più avanti. D'accordo. Intanto la ringraziamo per l'intervento, è stato molto bello, e le auguriamo un buon proseguimento. Non so se è in campagna, se è in montagna. No, sono adesso qui a Milano. Ah, vabbè, allora. Sono esatto dove sono, davanti a un parco, perché abbiamo cambiato casa anche a Milano. E troviamo davanti al parco di Trenno a Milano. Bene, ci saluti il parco e ci saluti anche eventualmente la Madonnina del Duomo. D'accordo, va bene. Grazie mille, signor Marinello. Grazie a voi, buona serata. Buonasera. Ecco, così ringraziamo il nostro Marinello e noi Antonio. Noi abbiamo così un tempo per una considerazione finale. Si parlava di comunità, si parlava di giochi, di stare insieme. C'è un'opera del sociologo tedesco Ferdinand Tönnies del 1800, verso fine dell'Ottocento, che si chiama Comunità e società. Gemeinschaft und Gesellschaft. Bravo. E allora individua questo sociologo due forme diverse di organizzazione sociale, appunto la comunità, che è la Gemeinschaft, e la società. La prima è fondata sul sentimento di appartenenza e sulla partecipazione spontanea e predomina in epoca preindustriale, contadina quindi. La seconda, che è basata sulla razionalità e sullo scambio, domina nella moderna società industriale. Tönnies vede questi due tipi di organizzazione sociale come contrapposti. La teoria della società riguarda una costruzione artificiale che solo superficialmente assomiglia alla comunità. Però attenzione, mentre nella comunità gli esseri umani restano essenzialmente uniti, nonostante i fattori che li separano, nella società restano essenzialmente separati, nonostante i fattori che li uniscono. Vedi che bella... Questa è, sì, è una cosa che credo valga ancora oggi. Sì, comunque abbiamo sentito tante belle cose, abbiamo parlato di cose. Perfetto. Che ci hanno fatto tornare indietro di molti anni. Ecco, e non ci resta che ringraziare i nostri ascoltatori e ascoltatrici per la pazienza che hanno avuto, che dimostrano sempre nell'ascoltarci, ecco, nel seguirci. Antonio, un saluto a te, un saluto cordiale, come sempre. E a voi tutti un saluto affettuosissimo e come sempre vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.